Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Alessandro Manzoni. Se c'è un uomo a cui il cattolicesimo italiano deve l'incontro con gli ideali risorgimentali, questi è Alessandro Manzoni, intendiamoci. Di scrittori patrioti di sincera ispirazione religiosa, il Risorgimento ne ebbe diversi, ma Manzoni riuscì per il ruolo che venne ad assumere alla sua opera dove altri non riuscirono. Non solo perché il tema dell'unità nazionale attraversa gran parte dei suoi scritti, dalla brutta lirica civile e il proclama di Rimini del 1815 fino al trattato sull'unità della lingua del 1868, ma soprattutto perché il suo capolavoro d'una vita, I promessi sposi, ha assunto per il paese quel carattere di romanzo nazionale capace di raccontare l'essenza di una nazione ancora tutta da costruire, con i suoi tanti Don Abbondio e i pochi Fra Cristoforo. Don Lisander, che fu senatore del Regno d'Italia fin dalla nascita del Regno e da senatore del Regno morì nel 1873, fu insieme patriota fervente, cattolico rigoroso, ma liberale. Al Papa scelse di obbedire in materia di fede, quanto al resto pensava da sé. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.